Rassegna Stampa Europa. Cari amici, cari ascoltatori, un buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento consueto del sabato con la rassegna stampa dei quotidiani europei che si occupano di Europa. Naturalmente una piccola selezione per questi nostri 10 minuti e direi di partire questa mattina dal Guardian che sull'onda della Brexit si occupa delle declinazioni del tema. Dunque, l'articolo in questione si intitola Frexit, Nexit or Uxit. Dunque, Frexit ci arriviamo, quindi l'ipotesi della Francia, Nexit come the Netherlands, quindi l'Olanda, Uxit richiede un attimo di concentrazione e si riferisce in realtà all'Austria ipotesi, ma il titolo conclude con l'interrogativo: chi sarà il prossimo paese a lasciare l'Unione Europea? Il Guardian dunque fa una sorta di classifica delle possibilità e mette in prima posizione l'Olanda. Nell'articolo di Kate Lyons e Gordon Darrock si spiega che il giorno stesso della Brexit Nigel Farage, dunque il capo, ex capo di UKIP, suggerì che sarebbe stata proprio l'Olanda il prossimo paese europeo a lasciare quella che definiva la morente Unione Europea. Insomma, presto, disse, preparatevi alla Nexit. In realtà, spiega il Guardian, secondo un sondaggio particolare pubblicato lo scorso sabato dalla PNL Foundation, soltanto una stretta maggioranza di olandesi è dell'idea di tenere un referendum, ma soprattutto, e questo dice il Guardian con sorpresa e delusione probabile di Mr. Farage, all'interno di quel numero il 46% sarebbero in realtà per rimanere all'interno dell'Unione Europea. Insomma, questione tutta da vedere. Altro paese in primo piano, insomma, sotto la lente di ingrandimento del quotidiano britannico è la Francia. Marine Le Pen, dice il leader del Fronte Nazionale, ha suggerito che la Francia sarebbe stato il primo paese a seguire il Regno Unito nel lasciare l'Unione Europea e l'avrebbe fatto, come ha detto la Le Pen, appena vinte le elezioni del prossimo aprile. La Le Pen disse: se vinco le elezioni del prossimo aprile, vi prometto un referendum in and out, come la Brexit sostanzialmente, per la partecipazione appunto della Francia all'Unione, e la promessa prevede un tempo di ritardo rispetto alle elezioni di sole 6 mesi. Questo secondo il Guardian, però, oltre a essere, certo, dice possibile, ma tutt'altro che scontato, potrebbe poi fare i conti in realtà con un fronte pro UE che, nonostante la fase difficile, nonostante sicuramente l'Unione viva anche nell'immaginario collettivo europeo una fase decisamente negativa, però secondo il quotidiano britannico in realtà alla fine i francesi non seguirebbero la linea britannica. L'elenco prosegue e, come vi ho accennato dal titolo, l'Austria ha un ruolo importante. Norbert Höfer, il candidato della destra che è stato rimesso in gara di fatto dalla Corte Costituzionale austriaca dopo essere stato sconfitto ma poi recuperato sulle presidenziali, è infatti uno di quelli convinti che l'elettorato austriaco debba avere la possibilità di riflettere, di valutare quella che è stata definita in un primo tempo una Auxit, quindi l'uscita dell'Austria, che ora è diventata una Uxit come Österreich. Insomma, 3 paesi su tutti. C'è una citazione che riguarda anche l'Italia, dice: per Bruxelles il pericolo maggiore, tra virgolette, viene rappresentato dal Movimento 5 Stelle, anche se per quanto il Movimento, dice il Guardian, abbia acquisito e stia acquisendo un ruolo sempre più importante nella politica italiana, secondo un'indagine dello scorso mese di marzo il 61% degli italiani è ancora dell'idea che tutto sommato, di fronte all'opzione in or out, saremmo per lì. Questo dunque dal Guardian, e ora parliamo invece di Turchia. Come sapete, questa è anche una giornata con molte notizie che arrivano dalla Turchia. Quella che colpisce di più è riportata da un'intervista rilasciata alla FAZ, alla Frankfurter Allgemeiner Zeitung, dal ministro degli esteri Cavusoglu, il quale sostanzialmente ha detto che in Turchia potrebbe tenersi un referendum sulla reintroduzione della pena di morte. Tutto questo mentre le notizie ci raccontano anche di 330, pensate, accrediti stampa revocati, cancellati come misura di contenimento, che ovviamente preoccupa, e anche una prima dichiarazione intorno al golpe del leader del partito filo-curdo Demirtas, che nel primo incontro, appunto dal 15 luglio scorso, quindi dal giorno del golpe, dice: penso che il golpe in Turchia sia stato opera di un cocktail che include Gülen e altre fazioni scontente dell'approccio di Erdogan. È un punto di vista interessante, perché naturalmente è, come dire, quello di un leader importante, naturalmente di opposizione, ma una voce importante dal panorama turco. Su questo tema e sui difficili, più che mai in questa fase, rapporti di interesse tra Bruxelles e la Turchia, scrive un lungo articolo Le Monde, che potete trovare anche online, e il titolo è dedicato proprio alla repressione. 18.000 persone incarcerate dopo il mancato push, e questo, aggiunge e sottolinea il titolo di Le Monde, e sono fonti del governo, come dire, questa dunque è una voce minima. Intanto, per rimanere su temi, come dire, seriosi e anche drammatici, non posso non segnalare un articolo che ci arriva dalla Svizzera. Dunque, Le Temps è un quotidiano, l'importante quotidiano francofono del Vallese. Il titolo è secco e dice: l'Europa rischia davvero una guerra civile? Gli attentati terroristici che si moltiplicano minacciano la pace in Europa. C'è una corrente politica che guadagna terreno e che ritiene che la soglia di tolleranza all'idea europea di vivere insieme sia stata superata, o potrebbe esserlo presto. In particolare, questo lungo articolo che vi segnalo, il sito appunto leton.ch, cita alcune dichiarazioni di questa settimana. Una riguarda Marion Maréchal Le Pen, dunque la nipote della famiglia Le Pen, è sempre più impegnata nella politica, quando racconta che a metà settimana ha annunciato la sua adesione all'armata, alla forza dei riservisti volontari, e ha detto in maniera molto secca, come è solito fare la famiglia Le Pen, che il suo impegno è per difendere il paese dagli islamisti, che, ha detto, virgolettato, uccidono i nostri bambini, colpiscono i nostri poliziotti, sgozzano i nostri preti, e dice: svegliatevi francesi. L'idea appunto che emerge da questo articolo e dalle citazioni che vengono fatte è che un paese come la Francia potrebbe essere molto vicino a un vero e proprio, come dire, tracollo degli equilibri tra gruppi culturali, etnici, e dunque essere vicino alla possibilità di una guerra civile, per quanto solo la parola, il termine, insomma, appaia davvero impressionante. Abbiamo ancora un minuto e tornerei alla Frankfurter Allgemeiner Zeitung. Nella pagina politica c'è un lungo articolo dedicato al rapporto tra Europa e Varsavia e Polonia. L'articolo titola: Kaczynski si sente divertito, cioè ride delle preoccupazioni della Commissione Europea. Perché e quali preoccupazioni si riferisce? Da ormai parecchi mesi il contenzioso tra Bruxelles e la Polonia su una serie di misure che, secondo Bruxelles, riducono la libertà e i diritti all'interno appunto della Polonia. La Commissione europea ha minacciato la Polonia con delle conseguenze, perché il paese ha di fatto ridotto i poteri della sua corte costituzionale. Il capo del partito di governo Jarosław Kaczynski non prende sul serio le parole che arrivano da Bruxelles, e trova parole molto critiche anche per le preoccupazioni di Angela Merkel. Con questo direi che è tutto per questo appuntamento. Io vi ringrazio e naturalmente vi lascio agli altri programmi di Radio 24. Un ottimo fine settimana a tutti voi. rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.